Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 qui dagli studi di Radio Onde Fulane da Udine. Ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa è la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Comunque, dopo daremo anche i nostri soliti e consueti contatti, ma andiamo con la, diciamo, presentazione. Insomma, andiamo ad ascoltare questa band finlandese, band che era nata agli inizi proprio degli anni 80, da un loro album datato 1983. Ci ascoltiamo direttamente da Tampere in Finlandia i Ristetit, da loro album As a Prisoner of State 1983. Una buonasera e un benvenuto a chi ci sta ascoltando a questa puntata del 19 gennaio 2023 di Zardins Magnetics, qui in diretta dagli studi di Via Volturno a Udine. E questa sera abbiamo in programma molte cose. Vi cucineremo, diciamo, cercheremo di prepararvi, insomma, un pasto adeguato per i tempi, e vi vado a comunicare il menù, che prevede appunto una prima parte dove andremo a dare i più recenti aggiornamenti sulla mobilitazione in corso per la liberazione dal 41 bis del compagno Alfredo Cospito, in digiuno da 91 giorni oggi. Quindi gli aggiornamenti sulle mobilitazioni, sulle varie iniziative che ci saranno, e dopo di che, appunto, parleremo del suo stato di salute. Poi andremo a parlare delle varie, insomma, anche altre piccole cose che ci saranno, sempre attinenti al discorso sulla mobilitazione contro il 41 bis. Se c'è modo, tempo, insomma, volevo anche fare un intervento sulla situazione delle carceri italiane, specificamente nei minorili, la gestione di contenimento, insomma, della situazione dei prigionieri, situazioni insopportabili dei prigionieri, cosa succede con quando scoppiano le rivolte e perché, le ultime, insomma, scoppiate. Dopodiché, come abbiamo messo nella scaletta quella, insomma, diffusa, vi andremo, insomma, a parlare di questa bella iniziativa che si chiama Respiro. È una pubblicazione, appunto, che è arrivata al numero 4, ma lo faremo con chi, insomma, si occupa, con chi l'ha realizzata, con chi la cura, in collegamento telefonico. E questo, insomma, poi vedremo, insomma, come si mette cosa rimane ancora da dire, eventualmente altre insomma informazioni. Io direi che subito partiamo con l'ultimo più recente aggiornamento della, dato che noi andiamo in onda ogni giovedì, e ultimamente la dottoressa Di Alfredo rilascia la dichiarazione ai compagni di Radio Onda d'Urto e noi la rimbalziamo, insomma, sempre il giovedì sera, e riusciamo a mandarla, appunto, che ancora da un paio d'ore fa la realizzate, quindi ecco a voi, ecco il, insomma, ascoltiamo insieme questa l'ultimo diciamo report sullo stato di salute di Alfredo. Abbiamo con noi quindi Angelica Miglia, la dottoressa di fiducia dell'anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre, detenuto al carcere Bancali di Sassari. Allora, una buona giornata Angelica, grazie per essere con noi, ti lascio la parola per raccontarci insomma in che condizioni hai trovato Alfredo. Sì, buongiorno a tutti. Devo dirti che nonostante l'ulteriore calo ponderale, perché oggi ha pesato 87 kg, siamo al 90° giorno di sciopero della fame, ha perso circa 40 kg partendo da 115, tutto sommato le sue condizioni di salute sono stabili. Diciamo che siamo arrivati al limite in quella che può essere ovviamente una precipitazione delle condizioni precarie in cui adesso lui vive, perché tutte le riserve di glicogeno sono praticamente quasi esaurite, grasso non ne ha più, sta andando verso un catabolismo muscolare, i muscoli sono notevolmente ridotti di volume. Lui comunque è ancora cosciente, fa sempre uso del solito miele quando ha dei periodi di obnubilamento, però tutto sommato non posso dire di averlo trovato male oggi, ecco, tutto sommato sta discretamente bene, però siamo in quella situazione dove un mese fa potevo dire che poteva esserci ancora un buon margine perché lui no, perché la situazione non precipitasse, adesso questo grande margine non c'è più. Quindi insomma una condizione generale di salute che è irreversibile, per così dire, adesso, o c'è ancora qualche possibilità in cui si potrebbe... No, lui non sta male, volevo dire che quello che poteva essere il margine dove la situazione aveva ancora un po' di tempo, un bel po' di tempo per poter precipitare, adesso può precipitare da un momento all'altro, ecco, in questo senso volevo dire, in questo senso qua, cioè siamo in una stretta via dove può esserci un non nulla, anche uno stress emotivo, ecco, lui per esempio mi stava dicendo se faceva bene a camminare nell'ora d'aria perché se la spassava un pochettino con le altre tre persone con le quali divide l'ora d'aria. Ora è chiaro che una passeggiata a un altro paziente, tra virgolette, poteva essere buona, una cosa buona, perché fa sempre bene muoversi. Nel caso di Alfredo, un ulteriore consumo energetico, non essendoci la possibilità di reintrodurre queste energie perse, no. Infatti le ho detto cammina il meno possibile, stai all'aria, questo sì, però come attività fisica in questo momento non è indicato che tu la faccia. Chiarissimo. Angelica Miglia, grazie per essere stata con noi ancora una volta, a risentirci. Saluta sempre tutti con affetto. Benissimo, salutacelo ancora la prossima Va volta. Va bene, d'accordo. Grazie Angelica. Ciao. Sì. Attacco, tu vai sul piano piano. Let's go. Sì, ancora qui in voce, per chi si fosse collegato adesso, insomma, siamo su Zardins Magnetics, ospiti, insomma, di Radio Onde Furlane. Sono le 20:21 in questo momento, andiamo in diretta come tutti i giovedì sera. Noi, appunto, che realizziamo questo programma come assemblea permanente contro carcere e repressione del Friuli e di Trieste, e abbiamo, appunto, ascoltato la situazione, che evidentemente è preoccupante, di Alfredo, che è determinato nella sua decisione di andare fino alla fine. Non c'è altro da aggiungere, secondo me. Vi do così velocemente adesso anche gli appuntamenti vari che ci saranno. Ci sono già in corso oggi a livello, diciamo, italiano, e abbiamo, appunto, iniziative di strada in solidarietà con Alfredo. Sono oggi a Bologna in Piazza Malpighi dalle 18:30, solidari con Alfredo. Poi c'è sempre oggi a Roma, San Marco, in Piazza San Marco dalle 17:00. Nessuna resa, la loro lotta è la nostra lotta. Poi c'è Napoli oggi alle 18:30 in Piazza Plebiscito, attiviste e attiviste napoletane per l'abolizione dell'ergastolo e 41 bis, mobilitazione in solidarietà con Alfredo Cospito per l'abolizione dell'ergastolo e 41 bis. Dopodiché domani invece sarà la volta di una mobilitazione, scendiamo in strada a Genova, in piazza San Lorenzo, alle 17:30, con Alfredo in sciopero della fame, con tutti coloro che lottano dentro e fuori le galere contro Stato e Capitale. Inoltre ci sarà sempre domani, che è venerdì 20 gennaio, e per chi ci ascolta da Radiazione, cioè oggi, venerdì, ci sarà una iniziativa a Trento, in via Verdi, davanti a Sociologia Trento, manifestazione al fianco di Alfredo contro il 41 bis, ergastolo ostativo, repressione delle lotte sociali. Poi è la volta di credo che sia Roma, perché è Giardino di Via Renula, sì, davanti al Ministero di Giustizia, alle 17:00, aggiornamenti con gli avvocati sulla situazione in corso, sulla sciopero della fame a oltranza, assemblea pubblica per auto-organizzare la settimana di presenza in strada, compagni e compagne. Dopodiché Marina di Carrara, però siamo a sabato 21 alle 18:00 in piazza Ingolstadt, presidio in solidarietà Alfredo Cospito. L'ultima che vi lascio è questa di naturalmente di Bancali, davanti al Lager, a Sassari, domenica 22 gennaio dalle 15 alle 18:00 e finché ci va, presidio solidale con Alfredo Cospito, interventi, musica, cori, poesie, e se non sbaglio c'è, andate, insomma, se andate a cercarlo in solite fonti di controinformative, c'è anche la possibilità di mandare il proprio contributo in audio a una mail in formato, insomma, audio, e poi loro lo rimbalzano al presidio direttamente. E questo per il momento è quanto. Yeah! E intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band pugliese, esattamente di Bari. Loro sono gli Antidigos e questo è il loro ultimissimo uscita su vinile e su CD, scusate, l'ultimo loro album, che si chiama L'amor mio non muore. Antidigos. Di nuovo in diretta, sono le 20 e 30 minuti precisi, sempre qui per Zardis Magnetics come ogni giovedì, in diretta da Udine. E per concludere gli aggiornamenti sulle mobilitazioni relative alla lotta di Alfredo Cospito, c'è anche questa importante iniziativa, l'ho già detto, ma pazienza, che è un videodocumentario che è stato realizzato, diciamo autoprodotto, e che sarà visibile in streaming gratuito da domani, che è venerdì 20 gennaio. A partire dalle ore 18, il videodocumentario si intitola Fino all'ultimo respiro, il caso Alfredo Cospito e Anna Beniamino. È reperibile sulla piattaforma che si chiama Strain, con 3 E, Strein di Napoli, Strain. Questo è un videodocumentario di 28 minuti realizzato da Video Citronics e niente, penso che sia rivolto a chiunque, nel senso che ripercorre i fatti, insomma, con la collaborazione anche degli avvocati che assistono Alfredo e Anna, ricostruisce la vicenda, insomma, giudiziaria e repressiva che, insomma, li ha visti i protagonisti e che oggi, insomma, vede vede Alfredo aver, insomma, trovarsi a digiuno, aver perso 40 kg e dice appunto la, così, il lancio qui dice: ad oggi Alfredo ha perso 40 kg e si sta avvicinando pericolosamente a essere uno scheletro. E, direi che con questo abbiamo concluso il discorso su, sulle iniziative. Poi volevo anche ricordare che prima abbiamo ascoltato una band inglese, i Thatcher on Acid, mentre ora ci stiamo ascoltando sempre una band inglese dal loro album A War of No Beauty, sono i Disgust. Eccoci di nuovo in diretta per questa puntata di Verdins Magnetics di giovedì 19 gennaio. Volevo, prima di parlare con Marco della rivista Respiro, vedere un attimo con voi, insieme a voi, una questione relativa, insomma, carceri psicofarmaci. Faccio un inciso: è vero che anche, cioè, probabilmente anche stasera, la puntata di stasera, corriamo il rischio magari di essere un po', come si dice, autoreferenziali, cioè di girare intorno, a avvitarci su sempre le solite questioni nostre, di non parlare di quello che succede al di là delle mobilitazioni, delle lotte. Volevo solo dire che è vero in parte anche no, perché appunto le vite nostre sono comunque interconnesse con, giustamente, con quello che succede a tutti gli altri, non, diciamo, le persone non politicizzate, tutto fra virgolette. Però è anche vero che, sì, poi magari ne riparleremo, che qualche volta si ha bisogno di respirare, nel senso anche di alzare la testa, di vedere da che parte si va, da, insomma, alzare lo sguardo verso il cielo, verso qualcosa di diverso da quella che è la quotidianità. Ritorniamo a questa questione della chimica nelle carceri, prendendo spunto da un, secondo me, interessante articolo che trovate sul sito di Radio Blackout. È scritto da Ricongiunzioni, che è un programma che va in onda settimanalmente, mi pare. Allora, il 10 gennaio scorso, l'altra settimana, è scoppiata una rivolta al carcere minorile di Roma, a Casal del Marmo, dove appunto ci sono state, è stato bruciato un materasso, non so, adesso forse qualcuno è stato anche ricoverato per intossicazione, insomma. Il punto non è questo, il punto è fare un attimo, esaminare, diciamo, una disamina, più che esaminare, una disamina su quello che è la funzione di queste sostanze nel tenere in piedi il dispositivo carcerario. Allora, se cercate la notizia sulla stampa mainstream, Manifesto ha pubblicato un articolo, dice, cioè, è anche, a parte il Manifesto, anche cronaca locale di Roma, le guardie naturalmente si buttano a capofitto, dicono, si inventano una rissa tra minorenni e giovani adulti, dicono che c'è una direttiva recente che impone che siano stati, insomma, che sono stati spostati i giovani adulti, vuol dire quelli o le persone sotto i 25 anni, sono stati deviati, insomma, sugli istituti minorili, penali minorili. Però la realtà di questa rivolta del 10 gennaio scorso a Casal del Marmo è che è scattato, diciamo, questa rivolta, questa aggressione, pare, insomma, all'opera di alcuni, insomma, reclusi, perché era saltata quella sera lì la distribuzione, appunto, serale degli ansiolitici. Se guardiamo appunto le statistiche più recenti a livello italiano, risulta il 43% della popolazione carceraria, 43%, assumono sedativi o ipnotici, cioè, adesso la dico brutalmente, pastiglie per dormire. Riguardo invece agli antidepressivi, cioè alle sostanze che servono per sostituire, diciamo, le sostanze psicotrope, o, insomma, per far virgolette, insomma, quello che la persona assumeva prima di essere rinchiusa in carcere, arriviamo a una percentuale del 20%. Allora si chiedono in questo articolo, rimandano anche un'altra ricerca, e dice lo psicofarmaco. È stata rivolta questa domanda a un campione di psichiatri delle varie strutture, insomma, carcerarie. Ha uno psicofarmaco ha un carattere curativo o repressivo della malattia mentale, no? Perché naturalmente è vero che in certe situazioni non c'è altra scelta che contenere il disturbo con, appunto, attraverso somministrazione di psicofarmaci, il disturbo, appunto, del comportamento da condotta, si intende, insomma, quando uno rompe i coglioni bisogna calmarlo con le pastiglie. Però è vero anche che i professionisti, appunto, i psichiatri lo sanno, anche, insomma, tutti gli altri lo sanno, che il sollievo, per chi lo circonda, questa persona, è solo momentaneo, e quasi sicuramente la crisi successiva è sempre di solito più intensa e ancora più incontenibile di quella che era preceduta. A livello di persone con dipendenza da sostanze, poi il discorso della somministrazione di metadone, per legge può essere solo, si possono procedere, il personale sanitario può procedere solo su comprovata dipendenza fisica, dice la legge del 90. Sì, anche qua ci sarebbe da discutere, sarebbe da discutere, nel senso da aprire un po' la discussione su questa, chi si prende la responsabilità di dire che c'è la dipendenza fisica o no, soprattutto, e perché, appunto, il carcere dovrebbe somministrare al posto di altre agenzie il CERT, quello che è territoriale, che invece sarebbe la sua finalità, non quella, cioè non il carcere che somministra, perché somministrando sostanze diventa, insomma, un soggetto, anche il carcere, un soggetto del contenimento, diciamo, che, cioè, attraverso la somministrazione di psicofarmaci, voglio dire, la farmacologia diventa una camicia di forza chimica, e in carcere si ricrea il manicomio che si voleva depotenziare, disattivare, disarticolare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso vi invito, insomma, senz'altro a andare a vedervi questo interessante articolo che ho trovato, appunto, poi mettiamo riferimento nel blog. E per concludere, insomma, l'articolo dice, chiare lettere, dice: questa rivolta a Casal del Marmo dimostra che la psichiatria in carcere serve a sedare le rivolte. In un ambiente altrimenti insostenibile, serve a chiudere gli occhi, almeno di notte, e anestetizzare il dolore. Appunto, il 43% di sedativi significa, appunto, anche questa cosa qua di rendere sopportabile anche ai neoarrivati, insomma, quando chi arriva per la prima volta rinchiuso dentro un carcere arriva già da una situazione problematica, e viene messo in una situazione molto molto, appunto, complicata, lo carica di tensione, lo mette nelle condizioni, insomma, una condizione a rischio per sé e per gli altri. Magari sicuramente su queste cose avremo occasione di ritornare anche su fatti concreti, diciamo, successi anche nelle carceri qui vicino a noi, a Udine, a Trieste. Il momento di collegarci con il nostro ospite di stasera. Sei già in linea? Sì, ciao a tutti e a tutte. Ciao, benvenuto intanto, grazie. Allora, solo un attimo ti presentiamo. Sì, allora, come avevo detto, stasera volevamo parlarvi di questa rivista davvero speciale, abbiamo detto, insomma, realizzata con disegni, soprattutto grafica, fumetti, anche parole, realizzata, insomma, si chiama Respiro, e abbiamo appunto con noi Marco, che l'ha ideata, diciamo, e la coordina, insomma, la cura. Partiamo, io partirei naturalmente subito. Partiamo intanto, prima di lasciarti il tempo di presentare a te, raccontare a te un po' l'idea, del come è nata l'idea della pubblicazione, volevo dire perché secondo noi appunto è speciale, perché appunto ho cercato di prima di preannunciare, insomma, di anticipare prima, è un così, è un lavoro secondo me che aiuta appunto a alzare la testa, alzare lo sguardo, oppure non so, a guardare meglio le cose, guardarle da un altro punto di vista, o a ascoltarle, o a tirare il fiato, come, cioè quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, no? C'è sotto la testata una boccata d'aria in forma di fumetto. Allora direi, ecco, che possiamo lasciare un po' alla parola a te per raccontarci. Sì, grazie, vabbè, intanto grazie a voi, grazie anche per avermi invitato a raccontarne. Io da 2 anni sono partito nel coordinare questo progetto ed è, come hai detto bene, una rivista. Sono 112 pagine, tutte stampate a colori, e la rivista viene stampata in tipografia. Uh-huh. E il formato è quello un po' classico delle riviste a fumetti, che è 17x24, e su ogni numero, ne sono usciti 4, ci sono più o meno una trentina di illustratrici, illustratori, disegnatori, disegnatrici diversi. Sì. E sono variamente fumetti oppure solo illustrazioni, o di testo ce n'è molto poco. E questo progetto è nato durante la pandemia, tra i tanti effetti che ha fatto appunto i vari obblighi e i vari ricatti governativi e le varie chiusure, ha fatto delle reazioni ovviamente diverse e strane a molte persone, e a me mi ha fatto venire voglia di lanciarmi nuovamente in un'avventura editoriale con lo spirito, diciamo. In realtà lo spirito, anche se poi è una rivista tutta bella, nel senso che è stampata a colori, è stampata bene, però lo spirito è quello delle fanzine. Mm. E si ricollega assolutamente con la musica che mettete nel vostro programma, nel senso che io vengo da quell'ambiente lì, da quel mondo lì, e per me l'immaginario grafico è sempre è stato quello delle fanzine, di fare dei grandi, tagliare, incollare, fotocopiare, passare tempo alla fotocopiatrice per fare dei volantini, delle grafiche, dei concerti autogestiti. Sì, sì, sì. E tutto certo. Quanto. E quindi si ricollega, poi è chiaro che lo strumento tecnico utilizzato è più tutto evoluto, un po' più leccato. Sì, sì, sì. Ma mi piaceva anche così, ecco, e nel senso, l'idea, ci sono dei lavori fatti comunque, delle robe fatte a colori che danno, comunque comunicano anche, insomma, il colore ha tutta anche una sua importanza secondo me nella comunicazione e in questa ricerca del respiro. E l'idea era proprio in un momento in cui l'ordine del mondo ci toglieva il fiato, o perché appunto o chi sentiva la paura di una malattia, o chi non ce la faceva a sopportare l'obbligo di dover indossare una mascherina dotata di poteri taumaturgici, o chi non ce la faceva a sottostare ai vari obblighi e ricatti vaccinali. Mm-hmm. Insomma, e oltre a questa mancanza di respiro, ci sono le altre che sono raccontate nella quarta di copertina, che sono ovviamente in rapporto col pianeta che ci ospita, nel senso che l'aria è sempre più malsana, è troppo calda, troppo secca, o comunque è difficile trovare, insomma, questo rapporto col pianeta che ci ospita è molto importante secondo me. E l'altro aspetto sempre legato al respiro è quello della repressione. Uh-huh. E l'inizio della pandemia ha coinciso con una delle più grosse rivolte nelle carceri e una delle più feroci e sanguinose repressioni, in cui hanno perso la vita una quindicina di detenuti rivoltosi, ecco. Sì, sì, sì. Ma quindi possiamo parlare anche di respiro di libertà, sì, è chiaro, respiro di libertà, sì. Ti sento un po' bassa, aspetta, provo okay, solo aspetta a sposto io forse ad alzare il volume del telefono, aspetta se riesco. Mi senti adesso meglio? Sì, aspetta, che questo coso. Ah, ecco qua. Aspetta, sì. Cioè, no, ecco, a proposito di respiro di libertà, cioè è una cosa interessante della fanzine di lusso, diciamo, sì. È che è aperta, cioè ci sono dei contributi anche di detenuti e detenute, no? Sì. E poi appunto è gratuita per, cioè avete l'interesse insomma di diffonderla anche all'interno delle carceri proprio per... Assolutamente, sì. Ed sì. È secondo me gli interventi, boh, io presente, non ho visto il primo numero perché il primo numero non l'abbiamo avuto l'occasione di vederlo, però tutti gli altri insomma ci sono i contributi, anche l'ultimo c'è questo discorso, anche questa apertura alle ragazze delle Vallette, no? Sì. Guarda, questo discorso sul carcere in realtà è stato un'evoluzione. All'inizio non era, posso dire francamente, sì. Era pensato, ma non era pensato in questo modo qua. Mm-hmm. Nel senso, come tutti i progetti, poi prendono un po' una loro piega. E all'inizio all'inizio, siccome durante la pandemia non si potevano fare concerti, iniziative benefit, niente, sì. Il benefit del primo numero era un po' incerto, nel senso che dico, bah. Magari ci sono altre realtà da sostenere, altre situazioni, e poi invece abbiamo deciso di far sì che tutti i ricavati della rivista vadano alla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali, che è una cassa anticarceraria che c'è in questa parte del Piemonte dove ci muoviamo noi. E nello stesso, cioè da subito la rivista era gratuita per i detenuti e le detenute, però non sapevamo bene, non si poteva immaginare che risposta ci sarebbe stata, come sarebbe andata. E poi con l'intensificarsi della repressione e con comunque insomma, poi alla fine un po' di scambio si è creato, e questa è stata una cosa che a noi ha fatto un casino piacere, e mi hanno non so dirti esattamente perché, comunque di tutti i carceri in cui è girata sì. La rivista, di tutti i vari, alla fine ha avuto più risposte dal femminile di Torino, dalle Vallette di Torino. Sì, sì, e poi sono i disegni che hanno fatto, il contributo è molto, molto interessante, molto efficace, come dire, cioè, sì, ti colpisce, sì. Sì. Sì, sì, soprattutto anche pensando a quello che avete detto prima sugli psicofarmaci, esatto. Cioè questo disegno di questa infermiera che passa col carrello e distribuisce farmaci. Chiaro che adesso siamo in il mondo adesso è meno duro dal punto di vista della forse di certa violenza fisica che sembra un po' essere sempre vista, mentre invece piace molto la violenza che passa attraverso dei farmaci, attraverso una camicia di forza appunto chimica. Sì, certo. Che non ha quella stessa violenza di legarti al letto, però comunque ha quello stesso effetto. E poi al bisogno ti legano anche al letto. Cioè, ovviamente, se magari sputi la pastiglia, sì. Chiaramente non è che la violenza viene abbandonata, diciamo si preferisce quella chimica, sì, ecco. Sì. Chiaramente. E diciamo l'aspetto con loro, l'aspetto di riuscire, cioè Respiro è diventata una rivista che riesce a circolare in varie carceri. Magari qualcuno la lascia nella biblioteca di sezione o tra vari detenuti se la passano, detenuti. E questo mi sembra una cosa appunto di aver centrato almeno un obiettivo, ecco, diciamo, fa molto piacere in quel senso lì. Perché, e poi anche siccome di respiro faccio molte presentazioni pubbliche in giro, sì. Questo permette anche in tante situazioni di parlare di carcere. Beh, infatti. E questo anche già prima della mobilitazione di Alfredo, del 41 bis, sì. Comunque è sempre una cosa che penso sia sempre molto importante. Certo. Le presentazioni, questa rivista non avendo appunto una diffusione in rete, non avendo un profilo sui vari social network, robe così, si riesce a farla circolare appunto facendo presentazioni, parlandone in giro, dei banchetti nelle situazioni di movimento, e diventano, visto che anche in situazioni meno politicizzate, al di fuori dei nostri ambiti ristretti, comunque è l'occasione per tirare fuori certi discorsi che normalmente non si affrontano tanto. Giusto. No, a proposito di questa cosa che hai detto, che preferite, diciamo, il contatto umano e la distribuzione diretta, no? Ad altri sistemi social, no, robe così, no. E secondo me una cosa bella anche della rivista è questa cosa, cioè il fatto di usare poco, diciamo, le parole, ma molto i disegni, il colore, insomma. E, sì. È qualcosa che parla più direttamente alla fisicità, come dire. C'è una comunicatività più diretta, io credo, anche in situazioni appunto non necessariamente dei nostri giri o politicizzate. Penso che possa piacere un lavoro così, appunto, sì, sì. In maniera trasversale, insomma, è questa molto, sì, secondo me è molto, sì, interessante. Io me lo auguro proprio. Vabbè, io sono ovviamente appassionato di disegni e sono una, quindi, però io penso che vivendo noi un periodo comunque molto, cioè 2 anni di pandemia e poi lo scoppio della guerra mondiale, sì, in centro Europa, e dove non è che proprio ci si aspettava, ecco, si pensava di stare sempre un po' col culo al caldo, e poi questa storia di Alfredo in cui, insomma, si vede sia da un lato la sua determinazione, ma comunque la disumanità totale del sistema dominante, diciamo che tutta questa situazione pesante sarebbe bello provare appunto ad affrontarla con i disegni, cioè nel senso, i disegni possono essere forse un modo per andare un po' in profondità di noi stessi e parlare anche con le nostre emozioni e cercare in qualche modo di trovare un altro modo di comunicare con quelle parti più nascoste di noi che forse con le parole sono difficili da raggiungere. Sì, e quindi il disegno, il colore, provare a insistere sui disegni, secondo me è anche un modo per provare di fronte un po' a una perdita di senso, di fiducia, o comunque un certo smarrimento in quello che ci viene propinato, provare a vedere se proprio lì, in quelle profondità, in quel modo lì, si riesce a pescare qualcosa, ecco, al, sì, di là delle parole. Sì, anche perché poi, perché poi rischi sempre di girare intorno alle stesse cose, no? Cioè ripetere, anche coazione a ripetere sempre le stesse cose, cioè quando ti abbandoni, diciamo, allo scritto comunicativo 100%, cioè è vero che i disegni, volevo dire questo, hanno una loro comunicatività, no? Che ti colpiscono in maniera più diretta, però allo stesso tempo, secondo me, no? Senza adesso, per radio non è tanto il caso di entrare nelle singole varie storie, insomma, però, cioè storie, le chiamo storie, ma cioè c'è quella, a me ha colpito tanto invece quella di Gabra Pan, no? Quella di Merlino, sì, sì. Dove lì riesci, cioè vedi veramente che riesci a mettere sul campo una un'estensione di, così, anche di concetti, li chiamerei quasi, sì, no? Non solo, sì, che oltre che il pensiero ti stimolano, come hai detto tu, diciamo, una ricerca interiore, ma non è solo interiore, è anche un mettere un po' in connessione un po' tutto il cielo, la terra, il volare, la volontà, anche il voler cambiare le cose, come fare, da dove cominciare, a chi farsi aiutare, cioè, insomma, i personaggi, gli animaletti. Sì, quella storia lì è particolarmente toccante, secondo me, particolarmente, come dire, emotiva, e come dici tu, riassume tutte queste cose qua. Lei è riuscita in quella decina di pagine con quei personaggi ad andare così, ecco, in profondità, e quella ad esempio è proprio una storia che secondo me ha un sacco di possibili letture diverse, per quello che è proprio così efficace. Sì, no, niente, no, a me era rimasta impressa sta roba, Boh, e poi possiamo non dire che ci sono anche due prigionieri compagni, insomma, sì, che danno il loro contributo già da, anche dall'altro, dai, mi pare sicuramente gli ultimi due, mi pare. Sì, sì, no, anche da prima. Ecco. Juan, nel numero 2, Juan ha scritto una lettera. Juan Sorroche, che lo ricordiamo, è stato condannato in primo grado a 28 anni per un ordigno messo a una sede della Lega a Treviso, e lui nel numero 2 ha scritto proprio una lettera ai lettori di Respiro raccontando la sua situazione giudiziaria e mandando un collage. Scusa, io che sono una fan dei collage, trovo che questi qua di Juan, anche nell'ultimo, sono super bellissimi. E poi lui dice bene che ogni tanto si dedica, appunto, perché fare collage porta in una dimensione, leggo quello che dice lui, dove si è tutt'uno con il tutto e con il respiro. E secondo me è vero questa cosa qua. E poi mi immagino la situazione dentro, nella quale, insomma, non è che hai tantissimo materiale a disposizione, no? Per fare robe creative, cioè ti tocca un po' arrangiarti con quello che trovi, e quindi devi anche un po', come dire, cogliere le cose belle, anche delle cose di bellezza, anche magari in oggetti così, che butteresti via, tipo nelle etichette, delle robe da mangiare, no? E quindi ricicli la quotidianità opprimente, appunto, della galera, in una maniera che invece ti dà un'apertura. E si vede tanto nei collage di Juan, secondo me, sì. Sì, sì, assolutamente. E poi su Anna, invece, dei disegni di Anna, che sono bellissimi. Sì. Secondo me, a me hanno fatto, ecco, invece i suoi disegni mi hanno fatto un po' di struggimento, un po' di malinconia, ecco. Certo, ma sì, anche perché, insomma, certo, io ho proprio chiesto a lei di scrivere una paginetta per la rivista, perché secondo me lei aveva già partecipato sul numero 3 quando era a Rebibbia con Natasha, e avevano fatto insieme due tavole, me le avevano mandate, e poi Natasha è stata prosciolta, è stata in primo grado, le è andata bene, è stata scarcerata. E niente, e su questo numero proprio che sta ad Anna ha detto: ma scrivi, oltre a mandarmi due disegni, sarebbe bello se avessi voluto scrivere qualcosa sulla situazione giudiziaria. E lei ha scritto anche lei uno scritto, secondo me molto, che racconta molto bene tutte le storture dell'operazione scritta a mano, perché in tutto questo, cioè oltre al 41 bis, bisogna comunque dire che tutta la condanna e tutta la pesantezza della condanna contro Alfredo e Anna si basa comunque su un processo che non sta in piedi. Cioè, oltretutto, la loro colpevolezza, cioè loro rischiano di essere condannati per il reato più grave di tutto l'ordinamento giudiziario, ma in base a delle prove che sono veramente traballanti, perché la prova fondamentale per loro che li incastra è quella della perizia sulle rivendicazioni, una perizia che era stata già rifiutata dai RIS nelle prime indagini, perché siccome Anna, quando era a Rebibbia, aveva avuto per un periodo, insomma, aveva avuto la possibilità di esaminare tutti i faldoni dell'operazione scritta Manent, era comunque riuscita a dare una grossa mano anche agli avvocati, perché aveva trovato un sacco di robe che non tornavano in questo processo. E questo anche, secondo me, comunque è un contributo a tutto quanto, perché anche lì Respiro, appunto, circolando in ambiti, anche in tante altre situazioni diverse, comunque riesce a trovare la lettera di Anna, la lettera di Juan, a trovare sempre qualcosa. E oltre ai disegnatori, diciamo, ci sono anche dei disegnatori di età diverse su Respiro. Io non l'ho scritto da nessuna parte, ma lo dico poi sempre alle presentazioni. Comunque, sia dal numero 1 che nell'ultimo numero ci sono degli adolescenti che hanno mandato dei disegni, e anche questo mi fa piacere. Sul numero 1 era anche relativo a come si sono vissuti la pandemia, nel senso, se già per noi cosiddetti liberi è stata parecchio dura, per chi andava a scuola e si doveva assorbire le varie didattiche a distanza e tutte le varie atrocità che passavano attraverso dei mezzi tecnici, e quindi era, alcuni hanno raccontato proprio, sono stati fatti dei fumetti sulla DAD, sulle varie restrizioni che dovevano subire, e comunque mi sembra bello di anche lì di fare qualcosa che coinvolga età e generazioni, diciamo, diverse, e mi piace, però non mi piace scrivere, nel senso, di ogni autore non è che metto l'età per forza nell'indice, non è che viene messo lì, quindi non è che metto Tizio Caio che ha 14 anni, che mi sembra di dire, vedi, anche se ha 14 anni disegna bene, è bravo lo stesso. No, ma comunque queste robe si possono anche scoprire poi, appunto, quando ci si incontrano, visto che non è che tutto deve essere già predeterminato. Sì. Sì, e poi ci sono anche due disegnatrici, io ne ho individuate due per la conoscenza che ho io, Canottiere, che sono disegnatrici professioniste, possiamo dire così? Sì, possiamo dire così, Sì, non solo loro, cioè sono varie. Sì. Sì, forse anche dalle vostre parti c'è Alessandra Cimatoribus. Ah sì, Cimatoribus, sì, è vero. Che aveva fatto anche un libro in friulano anni fa. È vero. Sì, quindi hanno aderito veramente anche persone le più disparate, diciamo. Ma poi, in realtà, come sempre, non è che viene chiesto un giuramento di fedeltà ai valori. Anche perché sennò devi fare una Treccani, cioè tipo dei volumi di 1000 pagine. Io sono anni che io lavoro anche come illustratore, disegnatore, sì, da molti anni, e comunque mi capita di aver conoscere, di avere relazioni, insomma, con vari disegnatrici, disegnatori da varie parti, e quindi quando è partito il progetto ho anche cercato di coinvolgere un sacco di colleghe e colleghi, e alcuni si sono presi bene. Cioè, secondo me la storia di Lolla, di Lorena Canottiere, mi sa che è sul numero 2, è molto molto efficace, mi è piaciuta molto, e lei l'ha fatta apposta per Respiro, cosa per cui la ringrazio sempre un casino, e anche altri. E il fatto di fare una rivista collettiva, ci sono appunto capacità diverse, persone che hanno magari più esperienza, persone che hanno di meno, però secondo me insieme tutti quanti la cosa riesce ad avere un suo senso comunque collettivo, e anche le robe magari meno riuscite comunque hanno riescono ad avere un loro significato forte, esattamente come le altre. Sì, certo. È vero. Devo dire che mi è sempre piaciuta questa dimensione, diciamo, collettiva, e di capacità, età diverse, e di cercare di mettere insieme tutto questo. Secondo me lì c'è una forza diversa, nel senso che sì. Poi siamo tutti un po' separati, nel senso che molte persone vengono da varie parti diverse d'Italia, e quindi io speravo fosse più possibile ritrovarsi e fare delle, ma purtroppo non, questa cosa in realtà rimane sempre un lavoro un po' solitario, quasi epistolare, cioè vi mandate le robe, sì, ci mandiamo le robe, sì. Da dentro a fuori, no. E anche tra fuori e fuori. Comunque volevo dire anche che cioè quello che hai fatto tu è un lavorone, nel senso di mettere in fila, scegliere insomma le varie proposte, eccetera, non indifferente, ecco, al di là di quello che si può anche valutare in un modo o nell'altro, voglio dire, è una fatica che hai fatto di... Sì, guarda, il lavoro è sempre quello di cercare di insomma, di dare un senso alle cose più disparate, poi ha anche degli aspetti spiacevoli, nel senso che non è che proprio, cioè, mi sono reso conto che non è sempre così bello fare l'editore, nel senso che comunque qualcosa è stato anche rifiutato, comunque qualcosa non era, non aveva granché, cioè qualcosa è rimasto fuori, ecco, di tanto. Però non so, e questo mi dà sempre dei gran pari d'animo di accollarmi delle scelte che uno dice ma perché devo scegliere, però poi in effetti è un po' è così, nel senso qualcuno lo deve fare, nel senso per fare una rivista, cioè comunque le pagine alla fine si è deciso quelle, che sono quelle, sono quelle, sì, sì. E poi cercare di, insomma, di anche di mantenere una certa coerenza in questa eterogeneità di cose, e quindi alla fine, boh, alla fine ho scelto così e me lo accollo, ecco, volentieri, però non è sempre così, è un certo sbattimento, ecco. E oltre a quello comunque anche presentare, per dire domani sarò a Bologna, e poi devo tornare subito, insomma, sono queste cose un po' così ad alta velocità che io di mio non me sarebbe la, il me massimo. La piglierei, no, insomma, me la piglierei molto molto più comoda. Boh, ma magari, però, visto che non è semestrale, no? Circa l'uscita. Sì, dovrebbe essere semestrale, più o meno. Più o meno, magari, sì. Perché noi qua siamo ormai, sì, praticamente in Slovenia, no? Cioè non è neanche Italia. Noi siamo noi, però dalla parte opposta, insomma, però magari chissà quando viene la bella stagione, sarebbe se c'è l'occasione, sarebbe bello fare. No, sarebbe bello fare un giro da quelle parti molto volentieri. Poi ecco, è un sacco che sì, sarebbe molto bello essere lì. Sì. Presentarla stato, qui. Sicuramente. Non è molto vicino, però sarebbe. Non è bello. Molto comodo, ma insomma, magari appunto quando questo finto inverno se ne va, magari è più abbordabile. Sì. E nel frattempo noi cercheremo di diffonderla anche dentro, magari anche nelle carceri qua locali, visto che comunque qualche contatto ce l'abbiamo dentro. Sì, ma se, appunto, se poi volete delle copie da mandare, io ve le faccio. Facciamo andare. Sapere. Perfetto. Sì, se avete degli indirizzi, perché appunto la rivista è gratuita per le detenute e detenuti che ne facciano richiesta. Bene. C'è un indirizzo sulla rivista e, certo, e anche e ovviamente anche chi vuole, nel senso, questa rivista è un progetto aperto, nel senso, chi vuole partecipare, che ha l'urgenza di raccontare, di dire delle cose, lo può fare, bello. È molto ben voluto, perché la discriminante, ecco, proprio l'idea era quella. Sicuramente di non fare una vetrina, cioè di non voler fare una vetrina in cui uno esibisce le sue capacità artistiche e creative, ma proprio di fare qualcosa che sia sì, appunto aperto, e quindi chi anche cioè, voglia mettersi lì alla vecchia maniera e fare due collage con le forbici e il taglierino e la colla va proprio bene, insomma, così sì, mi sembra. Bene, se ci sono delle cose quindi intense da dire che si ha la necessità di dire, cioè anzi di fare, sì, come hai detto prima. Sì. Sì, va bene. Bene. Niente, allora. Dai. Beh, ribadiamo intanto allora, Respiro, che così chi ascolta, Respiro, rivista semestrale, quando l'ordine del mondo ci toglie il fiato, una boccata d'aria in forma di fumetto. Sì. E allora dove si possono richiedere? Cioè si possono richiedere allora, a noi, perché comunque le teniamo. Però voilà. Sì. Sì, c'è una mail che vabbè è una mail brutta. Io quella bella ce l'avevo, ma poi ho dimenticato la password. Comunque la mail è compost, come il compost, con la C, compost@stronzi.org. questi autistici che mi ha offerto autistici offriva questi vari domini. Io quando ho visto quello stronzi.org ho detto beh, è la mia, è un po' trash comunque, dai, è un po' trash. Comunque a quella mail io comunque rispondo e uno lì può ordinare, io gli spiego come fare a pagare la rivista. Perfetto. La rivista costa 12 euro. Io posso fare un piego di libri, quei 12 euro nessuno si mette in tasca una lira, neanche io, cioè proprio nessuno, e tolte le spese proprio del tipografo, le spese vive della tipografia, che e, tolte quello va tutto alla cassa antirepressione delle Alpi Occidentali. Benissimo. Va bene. Bene. E quindi questo sì, e quella mail lì va bene sia per richiedere delle copie, sia per inviare, sia anche per inviare delle cose, sì sì, per contattare diciamo la redazione, la rivista. Bene. Ok. Allora, grazie. Ti ringraziamo. Dai, grazie a voi veramente. Tantissimo, grazie. E a presto, speriamo. Dai, a presto. Ciao. Dai. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Stiamo ascoltando questa band olandese, esattamente da Amsterdam, comunque una band che purtroppo non esiste più, era una band al femminile, loro erano le Do or Die, e questo, i brani che stiamo ascoltando sono estrapolati dall'album Crash and Feel It, datato 1990. Thank you. Bene, lasciamo in sottofondo questa band al femminile, ovvero le Do or Die, da questo loro album Crash and Feel It, datato 1990, e lo lasciamo in sottofondo perché siamo ormai giunti al termine di questa trasmissione, che vi ricordo che Zardis Magnetics va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane dalle 20 alle 21:30, e vi ricordo i nostri contatti. Chi volesse scriverci una posta elettronica deve farlo attraverso liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure in forma cartacea intestando all'Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Inoltre, chi volesse riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle scorse, può andare ad zardismagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardismagneticsradio.noblogs.org. Inoltre salutiamo ovviamente anche gli ascoltatori che ci ascolteranno domani e venerdì dalle ore 17 su Radiazione Web Radio. Bene, quindi siamo giunti al termine di questa trasmissione e vi lascio con un brano, forse due perché sono tutti brevi, tanto per arrivare alle 21:30, e sono brani estrapolati da questo album Hardcore Benefit Compilation che avevamo già ascoltato, che si chiama Adios Prison, che è un'uscita coprodotta da varie etichette, e si chiama anche Fuoco alle Carceri. Quindi ci ascoltiamo questa band che partirà adesso, gli Eat You Alive, e probabilmente ci ascoltiamo anche un brano dell'Amantide. Comunque sono ben 18 le band all'interno di questo, di questa compilation, e la, come ho già detto, abbiamo già ascoltato, ma ovviamente altre band. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.